Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. E a guardarli oggi quei giocattoli, oggi che sono passati mesi dall'ultima volta che li hai visti, oggi che la situazione economica è difficile, oggi che è Natale e non ti aspettavi proprio niente. Ecco, oggi la Barbie usata o il vecchio videogioco è come se offrissero anche a te una seconda possibilità. Mi chiamo Emma Verde e ho 32 anni e sono un ingegnere. Vivo a Roma e sono sposata e ho una bambina di nome Erika. Caro Matteo, mi chiamo Giulio, ho 45 anni e vivo in provincia di Torino. Ti ascolto spesso e vorrei mettere anche io i miei due puntini rossi sulla mappa di Radio 24. Quando me ne sono andato da casa dopo 10 anni di matrimonio e 2 figli di 7 e 9 anni, non ho fatto l'uscita ufficiale di quelle che si vedono nei film con 2 grosse valigie nelle mani salutando tutti a gran voce. Anzi, in mano non avevo proprio nulla. La mia casa nuova in un paese vicino l'avevo preparata poco alla volta e quel giorno sapevo che quella notte sarei rimasto là a dormire. Ci sarei rimasto con un senso di vuoto dentro e fuori e con un silenzio assordante. Nonostante me ne fossi andato per mia volontà, in quei giorni ho visto il fondo, la notte più nera, gelida, senza nessuna possibilità di una nuova alba. Avevo perso la mia famiglia, avevo lasciato mia moglie sola a crescere i nostri figli. Avevo perso la quotidianità dei miei bambini, il loro prepararsi per la scuola, il ritorno a casa, i giochi, la cena insieme, insomma, essere accanto a loro mentre crescono e si preparano alla vita. Il fatto è che fortunatamente oggi ne siamo usciti. Ne siamo usciti con l'aiuto e l'amore di mia moglie, con gli amici che si sono stretti tutti intorno a noi, con i nostri parenti che ci sono stati vicini, anche se non è semplice, in questioni così private come il rapporto tra moglie e marito. L'aiuto più determinante però ci è stato offerto da una psicologa a cui in realtà ci eravamo rivolti per aiutare i nostri figli a vivere l'esperienza della separazione dai genitori e alla fine ha dato modo a me e mia moglie di riavvicinarci. Ecco, ti scrivo oggi perché a distanza di un anno sono felice di essere tornato. Ora però guardo al futuro con gli occhi dei miei figli e io ho smesso di essere un puntino sulla mappa. Forse è brutto da dire, ma è così. Ah, complimenti per la trasmissione. Quest'estate ho scaricato le tue trasmissioni sulla chiavetta USB e in vacanza le ascoltavamo nei vari spostamenti delle ferie e ci divertivamo un sacco con i miei bimbi a dire «Noi siamo qui e voi dove siete?». Ciao, Giulio. Innanzitutto buon Santo Stefano a tutti, il 26 di dicembre e noi siamo qui, come diceva Giulio e i suoi figli. Oggi ho cominciato raccontandovi questa mail, leggendovi questa mail che mi è arrivata in realtà qualche giorno prima di Natale, perché racconta un pezzo di quello che raccontiamo oggi. La storia di oggi in realtà è la storia di una donna che si ricorda di quando durante la sua infanzia aveva avuto un regalo molto particolare per il giorno di Natale, un regalo che raccontava qualcosa che non era solo appunto un regalo per un giorno particolare come quello di Natale, ma raccontava la storia che si dà quando si concede una seconda possibilità a se stessi e in questo caso a degli oggetti, ma tant'è. La mail invece che mi ha mandato Giulio racconta secondo me proprio di quella cosa lì, racconta di dare una seconda possibilità a se stessi, in questo caso alla propria coppia, cioè alla storia che Giulio ha con sua moglie e che tuttora c'è. Certo, lui alla fine dice che il puntino sulla mappa, il riferimento che lui fa è la mappa che noi abbiamo sulla pagina di Voi Siete Qui, sul sito di Radio 24, per cui ognuno di noi, no, è un piccolo punto e su quella mappa trovate le foto, i racconti che sono arrivati fino ad oggi e che arriveranno a questo programma e alla mail di questo programma. Io non trovo che sia una cosa negativa il fatto che lui veda se stesso non come un unico punto ma come 2 punti che sono i suoi figli. Una volta mi ricordo che una persona che faceva l'analista mi raccontava di quando aveva in cura delle persone malate insomma in un istituto psichiatrico e parlando dei genitori, un tizio che aveva più di 50 anni mi pare e che aveva tentato di uccidere i suoi genitori 2 volte, parlando dei propri genitori disse: io credo che si debbano perdonare i propri genitori e si debbano concedere loro la sicurezza di un futuro e una soluzione di continuità. Ecco, questa frase di questo tizio ha, secondo me, a che fare con la seconda possibilità anche, e con la possibilità che si dà a se stessi, ai propri genitori e, nel caso di Giulio, ai propri figli. 349-238-6666 oppure voi siete qui, @radio24.it. In sostanza si parla di quello oggi, si parla di darsi e di dare una seconda possibilità. Nella storia che sentiremo, che vi racconterò più tardi, la seconda possibilità la si dà semplicemente a degli oggetti che si fanno rivivere in un'altra forma. Ma direi che vale tutto oggi, non solo perché è Santo Stefano, ma perché, come al solito, quando c'è un argomento di cui si parla vale veramente tutto. Come Bianca, che mi scrive: mi sono data da sola una seconda possibilità. Bianca scrive sul profilo Facebook del programma, che è sempre quello, Matteo Caccia, io sono qui. Dopo un anno di depressione in cui avevo pensato di mollare tutto e andare in campagna a fare vita ritirata, ho pensato che forse dovevo riprovarci. Sono rimasta a casa mia, nella mia città, che mi sembrava invivibile, e invece ho ripreso a vivere una vita sensata. Sono felice e non ho più paura. 349-238-6666. Anche Giorgio dice: io vorrei dare una seconda possibilità al mio capo dopo che mi ha malamente insultato prima delle feste. Mi ha già chiesto scusa, ma credo che non cederò. Vabbè, quindi niente seconda possibilità. E poi ancora Piera: ho dato una seconda possibilità alla casa in cui ho vissuto la bambina, tornandoci lo scorso anno a distanza di 30 anni. Sì, perché è vero che appena si parla di seconda possibilità viene in mente subito, la prima cosa che viene in mente è storie d'amore. Per cui addirittura prima di entrare in studio ho cercato seconda possibilità su internet, e riguarda solo quella roba lì, riguarda solo: devo dare una seconda possibilità a mio marito, devo dare una seconda possibilità alla mia fidanzata, e tutti giù a dire la propria. Sì, certo, perché non è amore se non si dà la seconda possibilità. Oppure la menata, come si chiama, quella del brodino riscaldato. No, il brodino riscaldato non funziona. Pippe: 349-238-6666. Pietro: io me la sto concedendo in questi giorni, la seconda possibilità. Ho smesso di pensare di essere un cretino e mi sembra che le cose vadano già meglio. La seconda possibilità la si dà anche agli oggetti, e la si può dare anche il giorno di Natale. Nel 1990 avevo 10 anni ed ero felice. Tutti in famiglia lo eravamo. Vivevamo al Vomero, il quartiere alto e raffinato di Napoli. Di ritorno dalle vacanze estive, però, quell'anno le cose cambiarono, e lo fecero improvvisamente, da un giorno all'altro. Le finanze della famiglia subirono un tracollo. L'attività di mio padre fallì malamente. Ci aveva tenuto tutto nascosto per non farci preoccupare. Poi un giorno tornò a casa e disse che l'azienda chiudeva, che avrebbe dovuto pensare a qualcosa di nuovo e che per un po' la nostra vita sarebbe stata diversa. I primi mesi di scuola furono complicati, soprattutto perché io facevo finta che non fosse successo nulla, ma a casa tutto era cambiato. Il momento più difficile, poi, fu l'arrivo del Natale. Ma sai, da bambini forse ci si accorge di meno dei problemi legati ai soldi. Ricordo che per un paio d'anni non comprai cartelle né astucci nuovi e ereditai i libri di mio fratello. La cosa diventa un po' triste quando arrivò Natale, perché di solito a casa nostra c'erano dei gran festeggiamenti, mentre quella volta era chiaro che c'era ben poco da festeggiare. Quell'anno facemmo l'albero di Natale, ma la mamma ci disse che io e i miei fratelli non avremmo ricevuto neppure un regalo. Non potevamo permetterceli, ecco tutto. La sera della vigilia andammo a dormire piuttosto giù di morale. Incredibilmente, però, quando ci svegliammo la mattina dopo, trovammo sotto l'albero una montagna di doni. Cercammo di controllarci durante la colazione, perché a casa mia è tradizione aprirli tutti insieme poco prima del pranzo, i regali. E poi cominciò il divertimento. Il fatto che nessuno si aspettasse nulla aveva aumentato in maniera smisurata la curiosità, e il desiderio di aprire e scoprire i regali era palpabile. Iniziò mia madre. Tutti eccitati ci mettemmo intorno a lei. Il suo pacchetto conteneva uno scialle di lana dimenticato da qualche parte parecchi mesi prima. Lo aveva fatto a mano mia nonna molti anni fa, e da qualche tempo non lo si vedeva più in giro. Forse perché era vecchio, o semplicemente perché era dimenticato. Mio padre invece ebbe in regalo una vecchia cassetta degli attrezzi piena di pinze, cacciaviti, martelli, chiodi, viti. Tutto raccolto nel garage, che ormai era diventato una sorta di caos uniforme. Mia sorella più piccola trovò una Barbie. Una Barbie che era appartenuta a me, perfettamente pettinata e con tre set di abiti diversi: quello sportivo, quello da cocktail e un completo da sera. Neppure io mi ricordavo di averceli avuti anni prima. A mio fratello arrivò in regalo una console per videogiochi appartenuta a mio zio. Di quelle che avevano un solo gioco, due lineette verticali che si rimbalzavano una pallina da una parte all'altra dello schermo. A me invece arrivò uno splendido cappello. Un cappello che credevo di aver dimenticato in una pizzeria qualche mese prima. ognuna di quelle cianfrusaglie fu un'assoluta sorpresa. Cominciammo a ridere con tanto gusto da riuscire a stento ad aprire il pacchetto successivo. Mentre tenevamo in mano quei regali che arrivavano dal nostro passato, ognuno si domandava da dove arrivassero e chi avesse preparato quella sorpresa. Finché l'autore si svelò e scoprimo che era stata tutta opera di mio fratello Pietro. Lui da parecchi mesi aveva iniziato a mettere da parte oggetti di scarto della cui assenza sapeva che non ci saremmo mai accorti. Poi la vigilia di Natale ci aveva lasciati andare a dormire, aveva impacchettato i regali senza fare rumore e li aveva ammucchiati sotto l'albero. Fu bello perché nessuno se lo aspettava e perché quegli oggetti tornarono ad essere utili. La cosa davvero sorprendente fu che quegli oggetti tornarono ad essere belli per il semplice fatto di essere stati infilati in un pacchetto. E ricordo quel Natale come uno dei più belli della mia vita. We come home early burning, burning in some firefly. I'm sick and tired of you setting me up, yeah. Setting me up just to knock and knock and knock me down, down, down, down. I'm going down, down, down, down. I'm going down, down, down, down. I'm going down, down, down, down. Tutti quanti noi abbiamo riciclato un regalo. Ognuno di noi almeno una volta nella vita si è trovato nella situazione in cui non sapeva che regalo fare. Oppure era troppo tardi per procurarsene uno e quindi ha cercato tra le sue cose. Ha scelto quella che sembrava meno usurata, l'ha fatta su in una carta colorata e si è presentato con il suo bel pacchetto. Di solito in questi casi la soddisfazione è doppia. Primo, perché abbiamo risolto un problema. Secondo, perché ci siamo liberati di qualcosa che evidentemente c'era di troppo, visto che abbiamo potuto farne a meno. La storia di Emma però è diversa. Non parla solo di un regalo riciclato, parla della seconda possibilità. È una storia che racconta di vecchi oggetti abbandonati, di giocattoli dimenticati che tornano ad essere utili in maniera sorprendente. Come se impacchettandoli e mettendoli sotto l'albero, suo fratello maggiore avesse regalato a quelle cose un'altra vita. E a guardarli oggi, oggi che sono passati mesi da quando li hai visti l'ultima volta, oggi che la situazione economica è difficile, oggi che è Natale e non ti aspettavi proprio niente, oggi la Barbie usata è il vecchio videogioco, è come se offrissero anche a te una seconda chance. Come se ti dicessero che puoi sempre ripartire, anche dopo l'usura, anche dopo l'abbandono. E forse potrà essere addirittura meglio di prima. Di recente ho visto un film. È un film che si intitola The Boxer. È un film che ha vinto qualche Oscar, mi pare. Racconta la storia di un pugile che vive nell'America profonda, quella che noi di solito non conosciamo perché siamo abituati ai grattacieli di New York o alle spiagge della California. È un pugile che per campare asfalta le strade. È praticamente la tipica storia sulla box. È la storia di una promessa, di una caduta e del riscatto finale. E tu sai sin da subito. Lo sai sin dall'inizio. Lo sai che il protagonista vivrà travagli, sconfitte, salirà sul ring e dopo essere stato preso a pugni per tutto l'incontro dal suo avversario, improvvisamente, così, come se niente fosse, si riprenderà, gli sferrerà due pugni ben assestati e quello andrà al tappeto. E infatti non è questa la cosa interessante del film. La cosa interessante sta nel fatto che il protagonista, dopo aver allontanato il fratello che lo allenava perché era diventato tossicodipendente, un giorno gli consente di tornare da lui e di allenarlo. Segue i suoi consigli e vince. Ecco, quando ho letto la storia di Emma e dei vecchi oggetti impacchettati per Natale, mi è venuto in mente questo film, perché in fondo raccontano la stessa storia. Raccontano della possibilità di dare a sé e agli altri una seconda chance, una seconda vita. Ti ricordano che nella vita le cose non hanno sempre solo un inizio, uno sviluppo e una fine. Perché la vita non ha un regista, non ha uno sceneggiatore che la scrive o la dirige. La vita è disordinata, è sorprendente. Ecco il regalo più grande che suo fratello ha fatto a lei e lei ha fatto a noi, raccontandoci questa storia. È che riconoscere agli altri una seconda possibilità, in fondo, significa riconoscerla anche a noi stessi. Quando ho letto il racconto di Emma, la primissima cosa che mi è venuta in mente è stata quella del riciclare i regali, ovviamente, ma perché c'ho una fantasia che è larga così, e quindi subito ho cercato di immaginarmi quando è che avevo riciclato un regalo, e oppure mi è venuta in mente la cosa che abbiamo fatto peraltro anche ieri sera con i miei amici di Novara, che è il regalo del sacco, cioè ognuno piglia un regalo orribile, lo mette in un sacco, poi si estrae, la riffa, come si chiama, e a me è capitata la solita statuetta, quella che cambia di colore con il tempo, che mi ha regalato Cristian Perrone. Vabbè, ma questo è un altro paio di maniche. La cosa in realtà interessante del racconto di Emma riguardava proprio il fatto che quello che ha fatto suo fratello Pietro, cioè quello di pigliare dei vecchi oggetti, di rimpacchettarli e di offrirli il giorno di Natale, è stato come, appunto, come diceva lei e come in qualche modo ho provato a dire anch'io, è stato come dare a loro una seconda possibilità. Pronto Emma? Pronto, ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, grazie, tu? Beh, benone. Innanzitutto buon Santo Stefano. Auguri anche a voi. Di solito si fa il giorno prima, noi lo facciamo il giorno dopo, perché ieri non eravamo in onda, ma chi se ne frega anche di questo. Com'è andata a Natale? Tutto a posto? Tutto a posto, sì. Dove l'hai fatto? In famiglia. Sì, in famiglia, qui a Roma. Ma senti, vanno un po' meglio le cose rispetto a quegli anni? Direi, mi dispiace dirlo, magari questo periodo che non è per tutti così, però rispetto alla mia esperienza le cose vanno molto meglio. Senti, tu dicevi in apertura sei un ingegnere. Sì. E cosa, che tipo di ingegnere sei esattamente? Sono un ingegnere edile e lavoro qui a Roma in uno studio di ingegneria. Ma gli ingegneri edili vanno anche in cantiere? Eh sì, spesso e volentieri. Cioè, quindi tu ti capita di andare in cantiere col metto e gli scarponi? Sì, sì, sì, mi capita. Che immagino sia un posto prettamente maschile il cantiere. Pian piano lo sta diventando sempre meno, però sì, perché, ovviamente. Perché mia sorella, scusami, ci facciamo un po' di fatti nostri, sì, poi andiamo altrove, perché mia sorella è architetto e le capita di andare in cantiere e mi dice è sempre difficile avere a che fare con appunto le persone che lavorano in un cantiere, perché arrivi, se la donna arrivi e dicono sì, vabbè, dai, sì, è arrivata questa, adesso ci dice come mettere due robe e poi facciamo un po' come ci capita. Senti, tu hai una bimba che si chiama Erika, dicevi in apertura, che sta bene, ai quali spero tu non ricicli, per la quale non spero non ricicli i regali. Non l'ho fatto, però probabilmente lo farò in futuro, perché è una cosa che a me ha insegnato molto. Senti, ma quel genio di tuo fratello Pietro, come sta? Sì, sta bene, sempre un po' strampalato, ma sta bene. Senti, perché questa cosa che lui abbia cercato delle vecchie cose in giro per casa e le abbia messe in un sacchetto, insomma, è un'idea proprio, nel senso che bisogna pensarla, non è che ti viene di farla automaticamente. Cioè, a me non è mai capitato di immaginare di prendere vecchie cose e di dargli proprio una seconda possibilità di vita, nel senso che a te ha regalato un cappello, se non ricordo male, mi dicevi, un cappello di lana che credevi di aver perso, e tu quel cappello, cioè, di fatto poi l'hai rimesso? L'hai riutilizzato? L'ho rimesso e penso che anche sia un'idea, come dici tu, però nasce anche tanto dalla voglia a volte di non accettare una realtà che magari è un po' triste per un bambino soprattutto. Senti, tu si sei mai data invece una vera e propria seconda possibilità? Cioè, c'è stato un momento nella tua vita in cui ti eri convinta che una cosa o un'attività o anche solo un comportamento avevi deciso che basta, lo chiudevi e poi invece ci hai ripensato? Non è successo, però probabilmente ho sbagliato quella volta a non dare a una persona, in particolare in questo caso, una seconda possibilità. Ci ho ripensato poi dopo. La risposta è no, proprio, non l'hai data. Sì, non l'ho data, esatto, però esorto invece tutti quanti a darla, perché dopo un po' pesa poi a ripensarci. Senti, invece tu oltre al tuo lavoro fai qualcos'altro, oltre al tuo lavoro e la tua famiglia, la tua bimba ovviamente, hai tipo una seconda, non dico una seconda possibilità, ma è una seconda vita, fai cose che... Ho un rifugio nella scrittura, scrivo piccole cose, sì, questo. Sono cose che scrivi per te oppure... Dipende, a volte per me, a volte lascio che le leggano altri. Senti Emma, visto che è Santo Stefano e tu ci avrai una figlia probabilmente da andare a accudire, se non anche un marito, ti ringrazio moltissimo per il tuo racconto, la tua storia, e ti auguro a questo punto un buon 2012. Ciao, grazie, ciao, ancora Matteo. Ciao Emma, grazie. Voi siete qui. È inutile che andiate sul sito di Radio 24 alla pagina di Voi siete qui in questo momento preciso se volete vedere una foto di Emma, perché Emma non ce l'ha mandata una foto. Noi le abbiamo dato diverse possibilità, non solo due, per mandarcela, però non si è capito se aveva problemi con la mail, anche se essendo un ingegnere non credo che abbia problemi con il mandare una mail e una foto, o semplicemente non aveva voglia di farsi vedere, vabbè, e per cui è andata così. Però io dal suo racconto mi sono fatto un'idea abbastanza chiara di com'è Emma. e quindi ho voglia di raccontarvela così com'è. Emma ha i capelli castani, corti, tagliati corti a caschetto, e ha il viso di quelle donne che sembrano sempre tranquille. Avete presente quelle persone che qualsiasi cosa succeda sono persone belle da avere di fianco, perché qualsiasi cosa succeda comunque le guardi e loro ti danno quella sensazione di serenità. Ecco, ha esattamente quella faccia lì. Ha su un maglione bianco di lana grossa, di quelli un po' pelosi che hanno su le mamme di solito. È in una sala da pranzo, ci sono un sacco di persone alle sue spalle che stanno mangiando, e dietro sulla destra c'è un albero di Natale. Capo, sembra quasi vera questa foto. Adesso mi piacerebbe chiedere ad Emma di scattarsi una foto così e di mandarcela, guarda, e di provare, e poi facciamo, come si chiama il gioco della settimana, similitudine e differenze, no? Come si chiama il gioco? Trova la differenza. 349-238-6666, anche a Santo Stefano. Arrivano messaggi al 349-238-6666, e un po' mi stupisce che a Santo Stefano non state mangiando, no, effettivamente alle 4:30 non state mangiando, ma state digerendo magari, e invece no, siete tutti qui. Marzia, la seconda possibilità l'ho data a mio marito, appunto, se ne parlava prima. Serena, io non credo nelle seconde possibilità. Eccolo qua, grandissima. Fabrizia, per la serie Messaggi fuori contesto, nel senso che non è totalmente fuori contesto, però un po' sì. Io ho riciclato un regalo proprio ieri. È come dire, prima raccontavo del fatto che il racconto di Emma è interessante non perché parla di regali riciclati, perché mica siamo Radio Cameretta che il 26 di dicembre parliamo dei regali riciclati. No, parliamo d'altro, giusto? Pigliamo la roba dei regali riciclati e andiamo in un'altra direzione. E invece niente, Fabrizia dritta come un treno. Ieri anch'io ho riciclato un regalo. Era un cofanetto di 4 CD di Elio e le Storie Tese. Ero convinta che non mi piacesse. Non l'ho mai aperto e ieri l'ho regalato riciclandolo a mio nipote. Oh, lui l'ha messa subito sul lettore di CD e dopo 5 minuti mi sono accorta che me lo sarei tenuta volentieri. Niente, Fabrizio, la prossima volta magari prova ad ascoltare il CD che ti regalano, o non devi aprirli, basta che vai su YouTube, trovi tutto, metti Elio e le Storie Tese e ti esce sicuramente qualche pezzo e puoi capire se è il caso di tenerlo. 349-238-6666 oppure voi siete qui @radio24.it. Questa mattina, proprio a questo indirizzo mail, tra l'altro è arrivato un racconto di quelli che vi chiediamo, no? Di una pagina in cui raccontate un episodio della vostra vita con un inizio, uno sviluppo, una fine. È arrivato ieri. Ieri non c'eravamo, però sulla mail voi siete qui @radio24.it. Ieri all'ora di pranzo, cioè il giorno di Natale alle 13:15, non mi ricordo più come si chiama, poi magari Margherita lo va a vedere, qualcuno ha inviato un racconto. Io ti sono molto grato, spero che, diciamo, tu abbia uno straccio di famiglia con cui passare il tuo Natale e che magari tipo stessi aspettando di andare a pranzo o avessi appena finito. Tant'è, questa mattina è arrivata una mail e mi piacciono, queste sono le mie mail preferite, non come messaggi fuori contesto ma quasi, perché è una mail di una bimba, si può dire bimba, c'ha, quanti anni c'ha? Aspetta, 12 anni, quindi direi che a 13 è una ragazza, perché a 13 arrivano. No? Ma Margherita, quando arrivano? Arriveranno? Dipende, mica tutte arrivano lo stesso. Vabbè, insomma, non voglio sapere se è già arrivato il ciclo a Chiara oppure no, però ha mandato una bella mail che parla di seconde possibilità. Ciao Matteo, ho 12 anni, mi chiamo Chiara e ti scrivo questa lettera da Otranto, in provincia di Lecce. Ti scrivo perché a me è successa una cosa che secondo me vuol dire dare una seconda possibilità. L'ho fatto 2 anni fa, il giorno di Natale, quando ho riconosciuto mio zio Corrado vestito da Babbo Natale e non gli ho detto niente. Lui è il fratello di mia mamma, è molto simpatico e mi fa sempre ridere. Gli voglio bene come se fosse un amico più che un parente. Lui vive a Milano e il giorno della vigilia di Natale del 2009 non si era ancora visto, perché arriva in Puglia sempre all'ultimo momento. A un certo punto mia mamma, prima di cena, ha detto che qualcuno aveva bussato alla porta e che dovevo andare ad aprire. Quando ho aperto ho visto questo signore vestito da Babbo Natale, con un vestitone rosso e la barba bianca. Teneva un sacco sulle spalle e mi ha salutato solo con la mano, per non parlare, perché altrimenti lo riconoscevo che era zio Corrado. Ma io l'avevo riconosciuto lo stesso. Tutti intorno, gli zii, la mamma, il papà, hanno iniziato a dire che bello che era arrivato Babbo Natale e se ero contenta, e io non volevo deluderli. Allora ho detto di sì, che ero felice. Lui ha tirato fuori 3 pacchetti tutti per me, poi ha bevuto un bicchiere di vino e se n'è andato. Mentre se ne andava, ho visto che sulla schiena c'era un buco nel giaccone rosso e sotto si vedeva un giubbotto di jeans. Dopo un'ora zio Corrado è arrivato e aveva addosso un giubbotto di jeans. Io non ho detto niente, mi sono tenuta al segreto, perché non volevo ci rimanesse male. E l'anno scorso gli ho dato una seconda possibilità, perché è tornato ancora vestito da Babbo Natale e io ancora l'ho ringraziato senza dire niente. Quest'anno però non ce l'ho più fatta e ho detto che avevo scoperto che Babbo Natale non esisteva, che l'avevo scoperto a scuola e che se per i miei andava bene dicevo direttamente a loro quello che volevo ricevere in regalo. Ecco, non so se questa è la storia di una seconda possibilità, però volevo raccontartela. Auguri, Chiara. And now you're calling me, asking me to come along, fly to your new home. Antananarive, baby, will you be by my side? No, I won't, I won't, I won't, I won't, I won't, I won't, I won't, I won't. Ve lo dico sempre che trovate tutti i brani che mandiamo in onda sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui. Questo però ve lo racconto che cos'è. Si chiama Antananarive, è un pezzo che arriva dal primo disco di un gruppo che si chiama The Second Grace. Loro adesso hanno fatto uno nuovo di disco di cui abbiamo messo, credo, anche un pezzo, Tiziano. L'abbiamo già messo. Loro però, non mi piace mai dirlo, però sono amici, uno di loro in particolar modo è un amico e fanno roba bella. Sentite come suonano? Sentite questo suono? Sembrano tipo neozelandesi, no? Tipo un po' inglesi anche. Oppure potrebbero essere dell'Ohio, ma fare roba indipendente. Sono di Palermo. Si chiamano The Second Grace. Volevo raccontarvi una piccola storia, che in realtà vi ho già raccontato. Però è, come dire, è il sequel. Quando l'anno scorso vi raccontavo i fatti miei, e solo i fatti miei, vi avevo raccontato un piccolo pezzo della mia gioventù di cui facevano parte quattro persone diverse, che erano degli amici, che erano Agostino, Claudio e Gaia. La storia che avevo raccontato era di un incidente grave e di due persone che, diciamo, prendevano due strade diverse. Gaia, che adesso non c'è più, e Agostino, che si era un po' smarrito. Non so se vi ricordate anche il mio viaggio in montagna insieme a Claudio, che il mio amico prete, in cui andammo a trovare Agostino. Bene, la notizia è il sequel di questa storia, è che un pochettino va bene, anche se non vogliamo essere né buonisti né natalizi, chi se ne frega. Il sequel è che Agostino sta bene, Agostino sta decisamente meglio rispetto a un anno fa, è uscito dall'istituto in cui si trovava e vive in una piccola casa che gli ha trovato Claudio, appunto il mio amico prete che vive sempre in montagna e sta là. Io credo che mi prenderò qualche giorno per andare a trovarlo, magari prossimamente, magari a Capodanno, non lo so. Però ecco, avevo promesso che non raccontavo più i fatti miei, però visto che si parla di seconde possibilità e visto che di fatto Agostino un pochettino era entrato nella mia storia e alcuni di voi spesso mi avevano scritto chiedendomi di lui, e allora eccolo qua, la storia è questa qua e siamo tutti un pochettino più felici, io sicuramente. 349-238-6666 oppure Voi Siete Qui @radio24.it. Paolo mi scrive, Paolo credo che sia evidentemente un allenatore, no? Perché dice: ho dato una seconda possibilità a un giocatore della mia squadra di basket, sono allenatore di una squadra di serie B e avevo smesso di credere in lui. Poi un giorno non sapevo più chi fare entrare e alla fine gli ho dato una seconda possibilità. Vabbè, ma così non vale. Cioè, se non sai chi fare entrare, è semplicemente che è l'ultimo che ti rimane. Gli ho dato una seconda possibilità, non ha fatto vincere la squadra, ma si è difeso bene. E va bene, insomma, è andata così. Questa mi sembra un pochettino la storia di Quaresma. Non so se avete presente. C'era un giocatore tempo fa nell'Inter e io ci credevo, perché moltissimi interisti, sapete come sono fatti i tifosi, no? Che appena uno sbaglia due partite, mio papà in particolar modo è così. Appena uno sbaglia due robe, basta, quello non va bene per la squadra. E invece ogni tanto mi affeziona. C'era questo giocatore portoghese che non era un granché effettivamente, però aveva questo colpo particolare che tirava col destro quando doveva tirare di sinistro. Vabbè, era un po' uno sfigato in realtà. E io gli ho sempre dato un'altra possibilità. Cioè, guardate che alla fine quello uscirà, guardate che uscirà. Infatti è uscito, adesso gioca in una squadra portoghese, credo. E chi se ne fotte, continuate se non avete niente da fare in questi giorni di Natale in particolar modo. Se siete in ferie, se non sapete come passare il vostro tempo, vi mettete lì, scrivete una storia che sia un episodio della vostra vita, con un inizio, uno sviluppo e una fine in una pagina e lo mandate a voi siete qui @radio24.it. Grazie a chi era anche qui anche il giorno di Santo Stefano: Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Ina e Stefano D'Andrea. La storia di oggi era la storia di Emma e parlava della seconda possibilità. Quella di domani è la storia di Anna e parla di uragani. Aprì la porta, mi si spalancò davanti il disastro. Oggetti, mobili, suppellettili, sedie, abiti, libri, penne, matite, taccuini, orologi, tutto. Tutto era scaraventato per terra, schizzato a casaccio in qualche angolo, o nel centro della stanza, o sul terrazzo, o in cucina. Come in una discarica, ma di oggetti ancora belli, ancora preziosi, ancora vivi. Come se fosse passato un uragano.